Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Possiamo dire che questa giornata, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che ancora non si è chiusa, è stata senza dubbio una giornata storica, chi potrebbe negarlo, ma anche un considerevole frangente che ci conferma ancora una volta, come se ce ne avessimo bisogno, che la politica in genere, ma in particolare diciamo la politica italiana, che ha una sua peculiarità, offre tante emozioni diverse, no? A volte positive, a volte persino esaltanti, poche volte diciamo, e molte volte negative, ma possiamo dire che in conclusione sicuramente la politica italiana non ci permette di annoiarci mai. E adesso sapete com'è andata un po' la giornata, cercheremo di riepilogarla un po' insieme con la fiducia che Letta ha conquistato, con questi colpi di scena, girandole di riunioni, di dichiarazioni. Adesso è in corso il voto di fiducia al governo a Letta alla Camera, cioè la prima chiama, forse riusciremo ad avere un risultato per le 22 tra un'oretta. Però vi informo sin da subito che questa di Effetto Notte è il nostro appuntamento di sempre per riepilogare insieme la giornata, per avere un punto degli approfondimenti, delle angolazioni di vista su quello che è successo durante il giorno, ma dicevo, questa è una puntata speciale perché sarà anziché di un'ora, di due ore, quindi da ora sino alle 23 saremo insieme e interazione oltre che con gli ospiti anche con voi ascoltatori e ascoltatrici. C'è il numero verde 800 24 00 24, che potete chiamare da subito per raccontare tutte le vostre sensazioni, le vostre emozioni, anche visto che abbiamo parlato di emozioni, e le vostre opinioni su quello che sta succedendo. Ci sono tanti aspetti di questo, possiamo anche definirlo uno psicodramma, poi man mano capiremo, ma intanto elenchiamo i titoli principali. Dunque Berlusconi, come sapete, ha fatto dietro front, molti titolano si arrende, e Letta ottiene la fiducia al Senato, ora la sta chiedendo alla Camera. E nasce nel PDL in questi frangenti per l'appunto storici, epocali e drammatici il gruppo dei dissidenti guidato da Formigoni, quindi spaccatura all'interno del centrodestra. Male le borse europee, ma nonostante tutto Milano è l'unica che chiude in positivo. Vedete le reazioni a volte imprevedibili, per carità, c'è stata la fiducia, quindi insomma la borsa si esalta in questo e dice forse c'è qualche speranza di stabilità, che le cose possono andare per il meglio. E poi lo sport con il calcio, Champions League, dopo Milan e Napoli che abbiamo seguito ieri sera, questa sera tocca alla Juventus. Quindi avete sentito, dopo la fiducia ottenuta al Senato oggi c'era molta attesa, molta tensione per la richiesta di fiducia al Senato, il discorso di Letta oggi, ora il governo la sta chiedendo alla Camera, l'esito pare comunque a questo punto piuttosto scontato, visto che la giornata è stata caratterizzata soprattutto dal dietro fronte di Berlusconi, che quindi ha assicurato appunto la fiducia a Letta. Letta che ha incassato quasi il pieno di voti, e adesso però per sentire come sta andando, sentiamo in diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Come anticipavi da studio, siamo ancora alla prima chiama del voto di fiducia alla Camera dei Deputati. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che c'è la chiamata nominale di ogni singolo deputato, che deve quindi, dopo essere stato chiamato, passare davanti al posto della presidenza e ad alta voce dire sì o no alla fiducia chiesta dall'esecutivo. Quindi è una procedura abbastanza lunga che prende di solito circa due ore. Quindi dici che fino alle 23 ancora non riusciremo ad avere il risultato finale? No, il risultato, Roberta, dovrebbe arrivare prima perché siamo alla prima chiama, ma quasi alla fine della prima chiama. Solitamente poi c'è un rapido giro per coloro che non hanno risposto alla prima chiamata, ma credo che, ecco, adesso sono passate da poco le 21, credo che entro la prima ora del tuo programma si riuscirà a dare il via libera anche alla seconda fiducia al governo Letta, seconda fiducia che è abbastanza scontata. Il cammino più importante è stato fatto questa mattina al Senato, dove i numeri erano più a rischio, no? Assolutamente, erano più a rischio per Letta, soprattutto prima che si sapesse che poi Berlusconi poteva dare, come poi ha dato, il suo via libera alla fiducia. Per cui, Roberta, il governo esce rafforzato, per quanto comunque è inutile nasconderlo, c'è comunque una nuova maggioranza, dei nuovi equilibri, ma sembra che questi equilibri abbiano rafforzato Letta, che si è detto convinto di andare avanti con un orizzonte temporale non limitato ai prossimi mesi, ma bensì addirittura lui ha parlato anche del 2015. Bene, ottimista, questo è già un primo passo, poi staremo a vedere, ce lo auguriamo, insomma, per la stabilità il paese, visto che anche l'Unione Europea continua a battere su questo tasto. Grazie Vincenzo Miglietta, grazie. In diretta da Roma. E nel PDL, dicevamo, non c'è solo una fronda, ma una spaccatura profonda, e molti ormai la definiscono una sconfitta politica per Berlusconi, per il PDL fino a qualche giorno fa naturalmente inimmaginabile, e che potrebbe decretare il definitivo passaggio del testimone del centrodestra da Berlusconi ad Angelino Alfano. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così. Allora, c'è un problema ovviamente nel PDL, quello che ci sono due anime oramai, due anime riconosciute, che sono quelle di Angelino Alfano e di Silvio Berlusconi, potremmo dire il leader che emerge, il leader un pochino al tramonto. Quello che è avvenuto stamattina al Senato, Roberto, è stato un po' scioccante, perché Berlusconi è arrivato, ha detto a tutti che avrebbe votato no alla fiducia al governo Letta, poi in mezz'ora si compie un giallo e decide di votare sì. Questo giallo in realtà potrebbe essere questo famoso biglietto mostrato da Alfano a Letta, in cui si diceva che, a parte 23 senatori che già avevano dato la fiducia al governo Letta, capitanati da Formigoni, come dicevi tu, che potrebbero formare questo gruppo dissidente, ci sarebbero stati anche altri senatori che ancora nel PDL però magari non avrebbero partecipato al voto, per cui non avrebbe comunque avuto la maggioranza del partito Berlusconi, questo è. E allora il cavaliere lì si è visto costretto a dire per forza sì, e allora si è alzato, ha fatto questo brevissimo intervento di 2 minuti e in questo brevissimo momento ha detto, dice sì, malgrado sia tormentato, io dico sì al governo Letta. Però non ha messo il dietrofronte, no, Betta Fiorito? Ma il problema è che lui ha sicuramente messo il dietrofronte, come dici, per la retromarcia. E ovviamente sparato a dire di no, poi ha detto di sì, è ovvio che è una retromarcia per tenere secondo me il partito. Ora bisogna vedere, perché si parla di un incontro tra Berlusconi e Alfano proprio questa sera, in cui Alfano poi proporrà delle cose per non uscire da questo partito. Cicchitto ha già formato un gruppo autonomo, Formigoni si appresta a farlo comunque al Senato anche questa sera. Però poi fondamentalmente bisogna capire che cosa succede tra i due leader del PDL, cioè Alfano, da oggi lo possiamo dire, e Berlusconi. Che vedremo in questo incontro che tu dici avranno. Quindi si stanno sfaldando non soltanto in due parti, ma anche in più parti. Tu dicevi Cicchitto da una parte, Formigoni dall'altra. Ma secondo me il problema è che la vera sconfitta l'hanno avuta i falchi, perché è chiaro che i numeri di Verdini e la politica della Santanchè hanno spaccato il partito. Di fatto questo una fronda anti falchi, no, del PDL. Dall'altra parte bisognerà vedere a che accordo giungono Alfano e Berlusconi per tenere insieme il partito, perché a differenza di questi due gruppi che si possono comunque formare, poi bisogna vedere cosa succede nel futuro, perché magari poi rientrano, già Formigoni ha detto sì, ma noi formiamo un gruppo, poi però si può anche risciogliere, riformare, insomma. C'è un po' di confusione in questo momento. È un po' di confusione. Di certo è che Berlusconi ha dovuto fare per la prima volta marcia indietro all'interno del suo stesso partito, e quest'oggi la partita, il match è stato vinto da Angelino Alfano. Grazie Elisabetta Fiorito da Roma. E adesso dicevamo quindi che Roberto Formigoni dovrebbe guidare almeno una parte dei dissidenti. Fino a poco fa sembrava appunto due parti ben nette, adesso invece ci segnalava Elisabetta Fiorito che potrebbero essere più gruppi, anche se poi bisognerà vedere che strade prendono. Comunque abbiamo detto Roberto Formigoni che ha annunciato oggi la nascita di un nuovo gruppo autonomo del centrodestra. Costituire gruppi autonomi, chiamandoli per esempio i popolari, qualcun altro propone chiamarli direttamente il PDL, resta in campo perché è un fattore di chiarezza politica. Noi abbiamo deciso da tempo di continuare a sostenere il governo per il motivo che ho detto, però ci riuniremo in serata e prenderemo insieme la decisione. E come hanno reagito le altre forze politiche a tutto quello che è successo oggi, nelle ultime ore, in particolare oggi? Quindi sentiamo il PD, se è il Movimento 5 Stelle, con questo servizio di Alessandra Schepisi. Il governo più solido e di un Berlusconi più marginale parlano sostanzialmente tutti. Oggi nasce una nuova maggioranza, ha detto Franceschini, insomma una giornata di svolta per il PD, ma c'è anche fermento nelle fila dei democratici dopo questa sorpresa del Cavaliere, una certa preoccupazione per il fatto di non essersi liberati di un alleato così ingombrante. Per ora Renzi tace, ma intanto un renziano come Gentiloni assicura che il PD sarà il più grande custode delle parole di Letta, mentre Civati, che già le larghe intese votò no, mette in dubbio anche questa volta il fatto di votare la fiducia. L'altro fronte, 5 Stelle compatto, ha votato per il no, confermando la linea dura, nessuna intesa con le altre forze politiche, aveva tonato dal Blondi questa mattina Beppe Grillo, tutto o niente, governiamo pure su questa linea le dichiarazioni di deputati e senatori. E ci sono altri aspetti sempre della politica, diciamo che in un momento di così grande tensione, così concitato, c'è qualcuno che non disdegna di aggiungere un po' di benzina al fuoco. C'è stata bufera sul capogruppo leghista al Comune di Milano, Alessandro Morelli, per i commenti contro Nichi Vendola pubblicati su Facebook. È Facebook il testimone virtuale dei commenti del consigliere leghista Alessandro Morelli nei confronti di Nichi Vendola. Il capogruppo al Comune di Milano ha pubblicato infatti sui social network una foto che ritrae il leader di SEL con il compagno e una scritta che recita «gay e pedofilo». Come prevedibile, sulla testa del consigliere sono piovute polemiche, accuse e richieste di dimissioni via web e con raccolta firme. E a nulla sono valse le scuse di Morelli, sempre via Facebook. SEL ha intenzione di querelare il consigliere e il Comune di Milano intanto prende le distanze per voce dell'assessore Cristina Tajani. Sconcerta constatare che ci sia ancora qualcuno, persino dentro le istituzioni, che sostenga omosessualità uguale pedofilia. Per noi è particolarmente grave quanto è stato dichiarato. Ovviamente come amministrazione esprimiamo la nostra solidarietà verso il governatore della Puglia. Piena condanna anche dal presidente di Arcigay Milano, Marco Mori. Queste argomentazioni poi alimentano quel clima d'odio, di intolleranza, di disprezzo e le violenze che poi vengono commesse. Valentina Innocente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Però ritornando, diciamo, alla situazione più centrale, più nazionale, quella appunto della crisi di governo sfiorata, adesso dovrebbe rientrare completamente, poi vedremo entro le 23 se ci sarà questo voto finale alla Camera per la fiducia al governo. La Commissione europea ha detto attraverso il Presidente Barroso che la stabilità politica è vitale per l'Italia ed è quindi molto positivo che il governo potrà continuare senza interruzioni le riforme avviate. Barroso ha aggiunto che è cruciale evitare una crisi politica artificiale che può minare la fiducia degli investitori nella ripresa. E quindi andiamo subito a vedere Piazza Affari che cosa ha combinato oggi. Nonostante la giornata negativa per le altre borse europee, Piazza Affari è chiuso con un più 0,68%. Lo spread in calo, il differenziale cioè tra titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni si attesta a quota 250 punti con un rendimento del 4,3. E per cambiare un po' anche argomenti, parliamo di telecomunicazioni. Facebook e i suoi fratelli, no? I vari social network, mandano un po' in crisi gli SMS e questo lo rivela l'osservatorio trimestrale della Gcom. In Italia 2 milioni e 400 mila persone non hanno accesso alla banda larga con velocità di almeno 2 mega. In parallelo, gli utenti virtuali sono oltre 5 milioni, con le Poste maggior operatore. E gli SMS calano a vantaggio delle chat. Lo rileva l'osservatorio trimestrale dell'Agcom, l'agenzia per le telecomunicazioni. Basilicata, Calabria e Molise sono le regioni che soffrono di più per il digital divide, mentre quelle più tecnologiche sono Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nei primi sei mesi dell'anno gli SMS sono calati del 10% a poco più di 43 miliardi a vantaggio delle app di messaggistica mobile sugli smartphone. Il traffico telefonico invece da inizio 2013 è aumentato del 5,6% a 73,8 miliardi di minuti. Nell'ultimo anno inoltre gli accessi alla banda larga sono cresciuti di 310.000 unità, mentre Telecom Italia scende dell'1,9% e va sotto il 50% del settore. Ne approfittano Fastweb più 1,3% e gli operatori minori. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E direi che è anche tempo a questo punto di occuparci di calcio, della Champions, con la Juventus che è in campo e con Dario Ricci che è qui invece in studio. Dario. Anch'io in campo, però ecco. A effetto notte, Roberta. Beh, siamo intorno alla mezz'ora di gioco, ancora 0-0, però a Torino già sono successe delle cose direi importanti, perché sapevamo che c'era Tevez, il grande campione argentino. Sapevamo tutti che c'era Tevez. Certo, lo sapevamo tutti, Juventus, Champions League. Insomma, tema quanto mai attuale, sapevamo appunto che Tevez era in dubbio, poi, come già avevamo anticipato nel GR, titolare, malgrado l'infortunio alla caviglia, quello che si è fatto male però è il suo compagno di reparto, quel Vucinic che era quello che comunque fisicamente stava meglio in un allungo intorno al 25esimo, uno strappo, uno stiramento esattamente, meglio dire stiramento appunto. Grazie. Al flessore della coscia destra. Al suo posto è entrato Quagliarella, che due minuti dopo dall'ingresso ha subito un contatto in area di rigore da parte di Inan, l'arbitro però non ha sanzionato il penalty. Un Galatasaray che, come sai Roberta, presenta Mancini all'esordio in panchina, e che comunque al 20esimo è stato pericoloso con un diagonale di Didier Drogba ben respinto da Buffone. Nell'altra partita del girone il Real Madrid di Carlo Ancelotti è in vantaggio sul Copenaghen per 1-0, il gol del solito Ronaldo. Significativo anche il vantaggio del Bayern Monaco sul Manchester City, l'ex squadra di Mancini e di Tevez, tra l'altro in questo caso il gol è di Ribéry. 2-0 anche per il Paris Saint-Germain sul Benfica, ha segnato Ibrahimovic, che in Italia è un po' ex di tutto, Inter, Milan, Juve. Li ha snocciolati questi risultati a memoria, Dario Ricci, devo dire. Tutto anche alla cieca, perché qua il televisore qua è fisso sulla camera. Sulla camera, vedi anche i tu. I siti che, insomma, sono oscurati, quindi rabdomaticamente diciamo, ho fatto le mie previsioni. Facciamo passare avanti il Parlamento rispetto a Vucinic e a Tevez, anche se sappiamo tutti che c'è Tevez questa sera. Ve lo concedo. Va bene, grazie Dario Ricci, molto esauriente. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Puntata speciale questa di Effetto Notte, con due ore dalle 21 sino alle 23 con i vostri interventi e anche quelli di molti ospiti sulla situazione concitatissima della politica italiana, anche se forse sta rientrando. Intanto vi ricordo i fatti principali di oggi. Dunque, la crisi di governo più o meno sventata, Berlusconi che ha fatto dietro front, si arrende, Letta ottiene così la fiducia al Senato, ora la sta chiedendo alla Camera. E in tutto questo nasce nel PDL il gruppo dei dissidenti guidato da Formigoni. Male le borse europee, nonostante tutto Milano invece è l'unica che chiude in positivo. E poi c'è il calcio con la Champions League, dopo Milan e Napoli di ieri, questa sera è in campo la Juventus. E adesso vorrei cominciare a sentire subito gli ascoltatori e le ascoltatrici al numero verde, visto che è aperto per voi, per le vostre opinioni, per sentire anche qual è il vostro polso della situazione. Gli italiani e le italiane che si trovano di fronte a una specie anche di psicodramma, diciamo la verità, con tutto quello che sta succedendo nel paese, con la crisi, non tanto quella di governo, ma la crisi economico-finanziaria che dura da diversi anni, tante emergenze che ci sono, insomma, diciamo che forse questo passaggio si poteva evitare, ma evidentemente fa parte del gioco della politica. Aulo da Udine? Aulo, eccoci. Perdonami, non avevo mai sentito questo nome, quindi l'accento mi è caduto lì. Aulo. Eccoci, grazie intanto per l'intervento. No, io volevo soltanto dire che, beh, intanto come italiano io mi vergogno quando giro per l'Europa a dire di essere un italiano, mi vergogno di questa classe dirigente, è vergognoso che si tenga per il collo un paese per una singola persona. In Italia ci sono delle cose, in primis il conflitto di interessi, che devono necessariamente essere risolte. Questo governo alla fine oggi ha avuto la fiducia, ma non cambierà niente secondo me, perché da febbraio ad oggi non è stato fatto niente. Dovevano cambiare la legge elettorale, non l'hanno cambiata, dovevano risolvere il conflitto di interessi, non è stato fatto, la disoccupazione giovanile è oltre il 40%, e allora se ne devono andare, non è retorica, sono dati. Quindi tu, Aulo, che cosa avresti auspicato? Che fosse caduto in realtà il governo, si fosse andati a votare per rinnovare? Avrei auspicato che ci fosse stata una crisi, ma una crisi di governo, e che il Presidente della Repubblica avesse dato l'incarico a quel partito che è stato il primo partito a livello nazionale per formare un governo, e che gli altri. Stai parlando del PD? Del PD? No, sto parlando del Movimento 5 Stelle. Non era proprio il primo partito, hanno preso un terzo, diciamo, il PD un po' più su. Visto che il PD adesso ha fallito e il PDL insomma si è spaccato, così almeno pare, io auspicavo a questa possibilità. Aulo, ti ringrazio. Vediamo tra poco, il Movimento 5 Stelle aveva già annunciato che avrebbe votato contro la fiducia, in questo si sono mostrati intransigenti, tranne qualche dissidente anche lì. Diciamo che questo è il periodo un po' dei dissidenti, anche nel Movimento 5 Stelle. C'è stata la senatrice De Pin, per esempio, che è uscita dal Movimento, ha detto io voterò la fiducia, un pianto. Cioè, ci sono stati dei momenti veramente anche molto emotivi in questa crisi. Prima di sentire l'ospite che abbiamo già in linea, vorrei sentire anche Marco da Arezzo. Sì, buonasera. Buonasera a te, Marco. Io sono fiducioso e sperante, forse si vede la luce in fondo al tunnel, la fine dei partiti personalistici. Di Pietro, per fortuna, ci ha abbandonato un po' di tempo fa. Sicuramente la Lega di Bossi non sarà più la Lega di Bossi, e probabilmente speriamo anche PDL non sia più di Berlusconi. E quello di Grillo? E forse quello di Grillo è già finito. E forse questa giornata sancisce anche che il PD non sarà di Renzi, perché la differenza tra la politica che può fare la differenza e la qualità dell'azione amministrativa sta nel fatto che un partito o un movimento non deve partire da una persona, ma da principi e da delle basi condivise. Dopodiché chi tira la carretta sicuramente dovrà essere un leader carismatico, però alla base ci deve essere dei principi e dei valori che sono condivisi, e non gli interessi personali o comunque, come dire, una certa autonomia personalistica. Questo ci ha portato qui, e se non si capisce che questo è il modo per uscirne, quindi io credo che una luce in fondo al tunnel ci sia. Se veramente oggi, come io mi auspico, può essere stato a un voto contro il personalismo della politica, io se lo spero, perché è chiaro Marco, questa il PD ne è intriso. Questa è la tua conclusione, Marco. Ti ringrazio. C'era un certo tramestio alla Camera, ho visto la Presidente della Camera Boldrini ha fatto una dichiarazione, però intanto ce la siamo persa. È entrato prima di sentire l'ospite. Dario Ricci, vuoi dare un aggiornamento sulla Champions? Sì, sono entrato come un falco. Colomba, spero. Ma no, come un falco, perché Didier Drogba ha proprio questo come soprannome, ed è lui che ha portato in vantaggio il Galatasaray a Torino. 35esimo del primo tempo, Bonucci sbaglia un tocco all'indietro verso Buffon. Drogba, appunto, a dispetto dei 35 anni, che non sono pochi per un centravanti navigato come lui, si avventa sul pallone, scarta Buffon in uscita, infila a porta vuota. Juventus 0, Galatasaray 1, e adesso per i bianconeri sono davvero guai. Sono veri guai. Grazie Dario Ricci, adesso il primo ospite, che è Michele Ainis. Non so se tu sei un tifoso, Michele, visto che siamo un po' in questa commistione. Aspetta un attimo, Michele, scusami, alziamo un attimo la diretta sulla camera. C'è Nicola Bianchi del Movimento 5 Stelle. Sentiamo cosa dice. Di una strada antiquata, una due corsie, ovviamente senza spartitraffico centrale, che collega due delle città e delle due aree economiche più vivaci dell'isola. L'accento sta sicuramente parlando della Sardegna, di qualche problema, dei tanti che riguardano la Sardegna. Scusa Michele. Eccoci, costituzionalista, editorialista del Corriere della Sera, docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3. Michele, quindi quadro della situazione, ma già gli ascoltatori buttano già degli spunti, no, delle loro osservazioni, dei loro punti di vista su quello che sta succedendo. E quindi per Aulo, pessimista, dice non cambierà niente, doveva succedere qualcosa di più forte. Marco la vede in modo positivo, dicendo finiscono man mano i partiti personali, personalistici, come li vogliamo chiamare. No, sono due degli elementi che stanno sullo sfondo, adesso ne possiamo ragionare. Certamente al centro della scena c'è questo parricidio che sarebbe stato impensabile fino a pochi giorni fa, non a pochi mesi fa. Il parricidio diciamo riguardo senso simbolico Berlusconi, sì. Che cosa significa? Significa che c'è all'interno del centrodestra l'inizio di un ricambio, di un rinnovo di classi dirigenti. Io per parte mia condivido l'analisi che è stata fatta dal nostro ascoltatore poc'anzi, ed è vero che in questi ultimi 20 anni, i 20 anni della Seconda Repubblica, noi abbiamo avuto delle classi dirigenti immobili, ma devo dire non soltanto nella politica, anche nell'economia, anche insomma nelle leve sociali principali. È un paese sempre più invecchiato sul piano politico, la sfida che si è ripetuta due volte a distanza di anni tra Prodi e Berlusconi, sempre più incanutiti, rappresentava, no, tutto questo. Cioè... Michele, perdonami se ti interrompo qualche secondo, ma sai che non solo la politica è concitata, ma anche qui conseguentemente la trasmissione. Arriva un'agenzia, in questo momento il governo, per quanto riguarda il governo, la Camera conferma la fiducia con 435 sì e 162 no. Quindi alla fine Letta ha conquistato la fiducia, sia al Senato che alla Camera. Il governo pare salvo, c'è stata la fiducia, te la do anche a te in diretta, Michele Ainis. Diciamo una iniezione di fiducia, no? Come si suol dire, di cui un po' tutti avevamo bisogno, perché alla fine meglio un mezzo governo, se qualcuno lo giudica un governo debole, quello che c'è insomma al di sotto di alcune aspettative, ma meglio questo che nessun governo avrebbe provocato una serie di guai molto peggiori di quelli che stiamo già attraversando. E quindi se l'orizzonte, perché la stabilità poi significa questo, significa la possibilità di programmare delle azioni di governo non con il fiato corto, che possano proiettarsi come fa qualunque imprenditore quando deve investire, o ciascuno di noi quando cerca di organizzare la propria futura esistenza. A proposito di precarietà, no? E di stabilità per l'appunto. Quindi questo per un verso diciamo è un buon incasso, per un altro verso però ecco mi pare che si sia effettivamente aperta una nuova pagina nella storia politica italiana, perché c'è una generazione di quarantenni o di cinquantenni, ma insomma certamente più giovane rispetto a quella assai attempata che li ha preceduti, che sta impadronendosi della leadership nei principali partiti, sia a destra che a sinistra. Io non so se questo segnerà la fine dei partiti personali, come un altro ascoltatore pronosticava. Sì, nel centro-sinistra c'è una diciamo personalità, un personaggio che ha una personalità molto forte, che è Renzi, che potrebbe poi diventare anche lui un leader di un partito così che si adatta come un abito alla sua corporatura. Michele, sentiamo un attimo, alziamo, c'è la gabbia sulla 7, c'è Antonio Di Pietro che era stato proprio evocato dall'ascoltatore. Sentiamo. Personali giudiziari e non per l'interesse del paese. Questo sono convinto io e rispetto chi la pensa diversamente. Rispetto molto. Ma dopo farai le domande. Così come chiedo. Ma proprio oggi io ritengo che oggi che c'è la resa di una storia personale che ho vissuto anch'io sulla mia pelle, perché oggi c'erano tanti scilipoti pronti a tradire Berlusconi, ieri c'erano tanti scilipoti pronti a tradire me, anzi che hanno tradito anche me. In questo senso io oggi a lui e a coloro che hanno perso rendo l'onore delle armi. Massimo De Mandoni. Questa è la conclusione quindi di Antonio Di Pietro, che insomma è sempre stato piuttosto contrapposto, no, per motivi e professionali e politici a Silvio Berlusconi, e un po', diciamo, una piccola rivalsa con questa storia dello scilipotismo. Lui era stato tradito da Scilipoti, poi a sua volta Berlusconi ha avuto quelli che sono stati definiti dai detrattori di questi dissidenti traditori, per l'appunto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Serata speciale questa di Effetto Notte, abbiamo detto che siamo insieme sino alle 23, partite alle 21, andiamo avanti sino alle 23 per cercare anche di raccontarci, di spiegarci, di dare i vari punti di vista e di chiarire ove possibile questa complessa situazione politica che dopo, diciamo, questa girandola di dichiarazioni, di colpi di scena sembra un po' rientrata, ma comunque delle conseguenze ovviamente ci saranno. Quali sono stati i fatti principali di oggi? Dopo il dietro front di Berlusconi, che prima aveva annunciato dimissioni, la sfiducia eccetera, Letta ha ottenuto la fiducia al Senato e poco fa anche alla Camera ha confermato la fiducia con 435 sì e 162 no. Nel frattempo una specie di diaspora nel PDL, nasce il gruppo dei dissidenti guidato da Formigoni. Come reagiscono le borse? Le borse europee sono andate piuttosto male, ma non per colpa della politica italiana, mentre Milano è l'unica che chiude in positivo. E poi in campo col Galatasaray per la Champions League c'è la Juventus che per il momento perde 0-1. E ritorniamo quindi sia alle vostre telefonate all'800 24 00 24, tra poco c'è Mario della provincia di Bologna, vi ricordo che per l'interazione reciproca c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte, Roberta Giordano, oppure il Twitter che è Roby con la Y, Linetta Bassa Giordano. E c'è con noi in collegamento Michele Ainis, costituzionalista e editorialista del Corriere della Sera, docente universitario. Michele, io ti vorrei far sentire anche, tra poco sentiamo anche il senatore Casson, che cosa oggi ha detto nel suo intervento, un po' a sorpresa, Berlusconi quando è intervenuto al Senato. Abbiamo ascoltato con attenzione le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, abbiamo ascoltato i suoi impegni circa il contenimento della pressione fiscale, circa la riduzione delle imposte sul lavoro, il fatto che l'Italia ha bisogno di un governo che possa produrre quelle riforme strutturali e istituzionali di cui il Paese ha bisogno per modernizzarsi. Abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Tra l'altro, Michele Ainis, Berlusconi, adesso questo era un taglio del suo discorso, seppur sia stato breve, due minuti o poco più, ha detto che alla fine la politica, i partiti eccetera non hanno capito la necessità di finire con la guerra civile. Quindi Berlusconi in pratica insiste sul fatto che se davvero ci si voleva pacificare, che cosa dovevano fare? O non condannarlo oppure evitare la sua decadenza? Che dici, Michele? Devo dire questo facendo uno sforzo di onestà intellettuale, cerco sempre di farlo. Certo. La questione della costituzionalità della legge Severino, io personalmente sono convinto che non vi sia un profilo di incostituzionalità, non sto a spiegare perché e per come, ma insomma, come vari altri costituzionalisti, ritengo che quella legge dia corpo ha una clausola che c'è nella Costituzione che vieta a coloro che sono moralmente indegni di essere eletti. Ciò detto però, il dubbio sulla invece di chi fa rientrare questa legge in un'altra categoria costituzionale, un suo spessore ce l'ha e si sarebbe anche potuto prospettarlo alla Corte Costituzionale, che probabilmente, questa rimane la mia convinzione, lo avrebbe respinto. Però che cosa avrebbe fatto? Scusa, non ho capito, Michele. Credo che avrebbe respinto. Comunque respinto il ricorso. Avrebbe fatto salva la legge. Però costituzionalisti, non tutti diciamo schierati da una parte, avevano prospettato questo dubbio, siccome per sollevare una questione di legittimità costituzionale, cioè per dare la palla alla Consulta e dire dici tu, serve soltanto che la questione sia non manifestamente infondata, cioè non deve essere fondata, e basta che vi sia la legittimità del sospetto sulla sua fondatezza. Ecco, forse questo si poteva. E allora io approfitterei, Michele Ainis, della presenza in collegamento, e ringrazio il senatore Felice Casson del PD. Buonasera, grazie. Buonasera a voi. Senatore, membro proprio della Giunta delle Elezioni e dell'Immunità Parlamentari, poi sentiremo anche del PDL Malan più tardi, non poteva esserci subito. Casson, che ne pensa di questa analisi, considerazione di Michele Ainis, che dice hanno fatto altri costituzionalisti? Avreste potuto aspettare che ci fosse, fosse presentato un ricorso alla Corte Costituzionale per capire se anche questo ultimo dubbio sarebbe stato fugato? Ma io non ho capito quale sia il dubbio, perché non è stato espresso, e d'altra parte noi oltre un mese che stiamo studiando, approfondendo tutte le questioni che hanno che possono avere profili di legittimità costituzionale, a mio modo di vedere sono tutte manifestamente infondate. D'altra parte noi quando solo pochi mesi fa in Parlamento tutti abbiamo valutato ripetutamente, almeno tre volte, il decreto, la legge delega al governo e poi il decreto legislativo, tutti quanti, compreso il PDL, compresi i membri del PDL attualmente presenti in giunta, che sono 5 su 6, abbiamo ritenuto certamente costituzionale quella legge delega e anche il decreto legislativo. Ma quindi questo è un problema che un po' supera i dubbi di ora che allora non c'erano. Ma poi c'è un'altra questione, che la giunta non è assolutamente un organo giurisdizionale, espleta in certi momenti delle funzioni paragiurisdizionali, però è un organismo di nomina politica che non decide assolutamente nulla. La giunta fa una proposta all'assemblea plenaria del Senato, che può decidere in un senso, può decidere in un altro, e quindi in quanto tale, in quanto organo proponente, è una sorta di pubblico ministero, non può assolutamente sollevare un conflitto davanti alla Corte Costituzionale. Tra l'altro non capisco su quale punto, perché oggettivamente, dopo tutti gli approfondimenti fatti, io personalmente, ma noi in giunta, abbiamo valutato che tutti in questo senso non ce ne siano. Quindi, Felice Casson, si vota, votate tra due giorni, giusto? Il 4 ottobre, sulla decadenza di Berlusconi. È previsto che si cominci a venerdì mattina alle 9:30, si sentono i senatori interessati, cioè se vuole venire il senatore Berlusconi, se vuole venire l'eventuale senatore subentrante Di Giacomo, con i loro difensori, che non possono essere senatori. Dopo che avremo sentito le loro valutazioni, ci riuniremo, discuteremo ulteriormente e poi alla fine voteremo una proposta per l'Aula del Senato. Quindi ci dovrebbe essere una specie di autodifesa di Berlusconi, che però nei giorni scorsi mi pareva non fosse molto disponibile a fare. No, sì, però siccome ha cambiato idea anche oggi quattro volte, non è detto che poi non venga, valuterà lui all'ultimo momento che cosa fare, è una sua facoltà. Noi gli abbiamo ampiamente riconosciuto ogni diritto di difesa, nel senso che quando è diventata definitiva la sentenza della Corte di Cassazione ha 4 anni di reclusione, il regolamento prevedeva 20 giorni per il termine di difesa, gliene abbiamo dati 32, erano previsti in questa fase ulteriormente 10 giorni, gli abbiamo dati 15, quindi verrà se vorrà, comunque verrà un suo difensore se vorrà, valuteremo tutte le considerazioni e poi decideremo la proposta. Ultima cosa, Felice Casson, intanto diamo per scontato che lei voti per la decadenza, no? No, ma io lo dico, io siccome non sono un giudice e sono un membro della giunta del Senato, io ritengo che sia non solo un diritto ma un dovere del parlamentare comunicare che cosa intende fare. E guardi, c'è una considerazione semplicissima: quando è stata studiata, valutata e approvata poi la nostra carta costituzionale, e quindi nell'immediato dopoguerra, i nostri padri costituenti hanno valutato se dovesse decidere questioni relative alla decadenza e ai titoli dei parlamentari un organo terzo come un giudice, un organo giurisdizionale o i membri del Parlamento. Hanno deciso per la scelta parlamentare, per la scelta politica, quindi è stata una scelta ponderata, non casuale, voluta. si può discutere se è giusto o sbagliata, ma questo è un altro discorso che anch'io vorrei fare in altre occasioni in maniera approfondita. Però i nostri padri costituenti hanno detto deve essere il Parlamento che valuta dei propri titoli. E il Parlamento per definizione non è super partes, non è un organo terzo, è un organo politico che ragiona secondo ottiche diverse da quelle del giudice. Quando dovrebbe votare il Senato, scusi Casson? Io credo che la Giunta farà la proposta nella giornata di venerdì, non so a che ora, ma comunque a qualsiasi ora. Poi è previsto che la relazione venga approvata in giunta, nel giro di qualche giorno verrà approvata, quindi tutto finirà il Presidente del Senato che fisserà la seduta dell'Aula in conferenza di capigruppo, quindi a partire da venerdì 10 giorni, un paio di settimane, insomma entro ottobre. Ecco. Se lei ha pazienza ancora un minuto, cioè sono gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, gli ascoltatori e le ascoltatrici all'800 24 00 24, ritorniamo proprio a questione di pochi istanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo brevissimamente i fatti principali. Letta ha ottenuto la fiducia sia al Senato che alla Camera dopo il dietrofront di Berlusconi. Nel frattempo nel PDL nasce il gruppo dei dissidenti guidato da Formigoni. È andata bene la borsa di Milano, l'unica che ha chiuso in positivo fra le borse europee, e per il calcio c'è la Juventus in campo. Ancora per qualche istante, chiedo pazienza alle ascoltatrici e ascoltatori all'800 24 00 24, per esempio Mario della provincia di Bologna, Bruno da Cagliari e gli altri. Abbiamo il senatore Felice Casson del PD, membro della giunta delle elezioni delle immunità, che voterà tra 2 giorni. L'ultima domanda, Felice Casson, lei oggi mi pare che abbia detto, a me sembra quella di Berlusconi una mossa disperata, nel senso che lui e i suoi hanno capito che non andavano da nessuna parte. Sì, guardi, perché da ieri sera, questa notte, fino a questa mattina, fino a mezzogiorno, all'una, le posizioni all'interno del PDL sono cambiate ripetutamente. C'è stato un tentativo di Berlusconi per portare tutti sul no alla fiducia nei confronti del governo Letta, non c'è riuscito, c'è stata una sconfitta evidente della sua linea, del suo partito, il PDL sta completamente saltando. Io aggiungo non solo in 2 parti, ma anche in più parti, sì, così perché basta leggere i nomi all'interno dei 2 schieramenti, quanto diversi siano tra di loro come storia, come cultura, come formazione, eccetera. E quindi sarà tutto da vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Infatti le conseguenze ci saranno comunque. E poi non dimentichiamo la possibilità già paventata di ritorsioni, di vendette nei confronti di coloro che hanno spaccato il PDL. Questo sarà anche un dato da considerare sia nella formazione dei nuovi gruppi parlamentari, sia anche per la vita stessa di questo governo. Grazie Felice Cassore, la ringrazio e buon lavoro e buona nottata. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Ancora un po' di pazienza, Michele Ainis. C'è Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, che deve finire giustamente di scrivere anche il suo editoriale. Tutti che scrivono qui. Stefano, scusami, hai sentito che cosa diceva Felice Casson di queste possibili ritorsioni che poi ci saranno? Cioè il PDL è spaccato, ma poi ci saranno anche un po' una resa di conti, dei conti, che non è soltanto la spaccatura, no? Ma questo è inevitabile, fa parte del gioco. Quando una storia finisce, 20 anni di storia politica sono sostanzialmente, si è concluse in queste ore, rimangono molte macerie, rimangono molte ambizioni di cercare di creare una prospettiva diversa, una prospettiva legata al Partito Popolare Europeo per quello che è stato negli anni il partito berlusconiano per eccellenza. Ma Berlusconi è ancora sulla scena, ferito, amareggiato, isolato, ma è sempre sulla scena. E quindi inevitabilmente ci sono una serie di ricadute anche in senso di resa dei conti. Non è una storia che si può concludere dall'oggi al domani, vedremo nei prossimi giorni come e quando prenderanno forma questi gruppi, quale consistenza avranno, quali prospettive si daranno. È ovvio che una cosa sarebbe stata se Berlusconi avesse confermato il voto contrario al governo, e un'altra cosa è questo voto in extremis di fiducia che naturalmente rende un po' più difficile anche lo sviluppo e la costituzione di questi gruppi separati. Senti, secondo te, per poi lasciarti andare, e domani leggiamo il tuo editoriale sul Sole 24 Ore, Stefano, ma il PD ci aveva quasi un po' sperato di creare un'altra maggioranza e di... maggioranza, un'altra maggioranza in un certo senso si è creata. La novità di oggi è che non è Berlusconi che si è aggregato all'ultimo, è che si erano costituiti di fatto due aggregazioni, non proprio dei gruppi organizzati, ma due aggregazioni che avevano deciso di votare comunque la fiducia al governo al Senato, dove i numeri sono stretti. E questa è la novità. Quindi in un certo senso ha ragione Letta quando parla di una maggioranza politica che è nata. E poi c'è il fatto che Berlusconi ha deciso all'ultimo, per tamponare la sconfitta, di votare anche lui, ma i suoi voti sono sostanzialmente aggiuntivi, non sono determinanti per reggere il governo. Quindi se per caso Berlusconi decidesse con il suo gruppo ristretto di smettere di sostenere il governo, sarebbe irrilevante per i numeri. Probabilmente la maggioranza c'è ugualmente per tenere su Letta e per dargli anche una possibilità di camminare e di realizzare il programma di governo su una base un po' più coesa di quanto non fosse la grande coalizione che al suo interno aveva e ha tante contraddizioni. Grazie Stefano Folli. Ciao Stefano, grazie. Prima della prossima pausa, lo so che dovrei fermarmi qui, non è possibile. Michele Ainis, ti chiedo solo se hai possibilità di restare oltre o se vuoi che ti saluti qui, perdonami. No, che tutto... ci salutiamo, scusatemi, sì. Mi spiace non aver potuto replicare a Casson, ma forse insomma sarebbe stata una disputa giuridica poco interessante. Insomma, mi limito a osservare che la Costituzione afferma che la Camera giudica sulle cause sopraggiunte, quindi è giudice, si chiamano interferenze funzionali, ma insomma il fatto è che